24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Le 8, 16 minuti, 25 secondi, inizia la terza parte di 24 Mattino. Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno Maria Latella che è in studio con noi a Milano finalmente. Ciao, buongiorno a tutti. Eccoci ciao, qua. Da eccoci. Roma a Milano il tempo è sempre lo stesso. No, ci sono delle differenze meteorologiche. Fa un po' più fresco. Va riconosciuto. 349-238-6666 per gli sms, per i messaggi su WhatsApp, anche audio. Questa mattina vi siete scatenati su questa decisione dei presidenti, o meglio questa proposta dei presidenti di regione leghisti mettere in quarantena gli studenti che tornano dalla Cina, non farli entrare a scuola. Su questo tra l'altro è intervenuto ieri il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, era ospite di TG2 Post. Facciamolo risentire Carmelo Lauricella, I problemi in questo caso non sono gli studenti cinesi, ma sono gli studenti che provengono dalle aree a rischio dove le persone sono state esposte. Questo è un tema che è oggetto di discussione. Certamente se provengono da zone quarantenate teoricamente non dovrebbero neanche essere a scuola, però questo è l'elemento eventualmente da approfondire. Si tratta di definire poi il livello di esposizione che hanno le persone rispetto al rischio che corrono. E però se ne discute, abbiamo letto in rassegna stampa due opinioni diverse, una del presidente della Società Italiana di Pediatria, l'altro dell'ex presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Ma si discute anche tra i genitori, penso, perché ho visto che sia Zaia che gli altri presidenti di regione hanno detto, ce l'hanno chiesto le famiglie. E bisognerebbe capire se questa appunto è una preoccupazione delle famiglie che ha sollecitato i governatori o no. Poi, tu che faresti? Insomma, io li rimanderei a scuola serenamente, in tutta sincerità. Tra l'altro Maria, mi aspettavo di vederti arrivare con la mascherina dopo quello che ci hai raccontato sì, ieri. Sì, perché sia all'andata che al ritorno ho fatto il viaggio proprio seduta accanto dei cinesi e come quasi... non dico la maggioranza, ma un bel numero di passeggeri, anch'io avevo la mascherina, che fa un po' strano, non so quanto serva, probabilmente è una misura psicologica, però stamattina quando sono arrivata qui esternutivo, vi ho visto Simone, ho visto Giorgio, un lampo di allarme passare tra i vostri occhi. Sì. E tu stessa ci hai detto occhio, attenti, 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Comunque gli WhatsApp stanno già arrivando, via. Buongiorno Simone, questa idea di mettere in quarantena gli studenti cinesi, ma guarda è molto semplice il discorso, cosa dicono gli esperti? Se gli esperti dicono che va fatta, si fa. Se gli esperti dicono che non va fatta, non si fa. Non sono certo dei governatori che sono dei politici e che quindi non sono, diciamo così, esperti del settore a dover dire la loro. Il guaio è che gli esperti la pensano in modo diverso. Gli esperti si dividono. Tra l'altro c'è anche da tenere presente che non è che la Cina starà a guardare, già ora manda dei segnali un po' inquietanti, perché dice guardate che noi ci ricorderemo di chi è stato amico, di chi non è stato nemico, ne parla anche Guido Santevecchi sul Corriere della Sera di oggi. Quindi mi sembra anche comprensibile che la comunità cinese scocciata. Si è un po' scocciata. Allora. Facciamo una cosa, adesso andiamo un attimo, facciamo un salto sulla politica. Poi torniamo sul coronavirus, perché ci ha appena dato disponibilità di intervenire il presidente della Regione Veneto, Zaia. Tra un attimo lo chiamiamo e sentiamo un po' che cosa ha da dire su questo tema. Però la politica, che è tutto il solito giro, Maria, della prescrizione. Tu citavi il sondaggio di oggi del Corriere della Sera, ma il sondaggio di oggi del Corriere della Sera è interessante perché se le proiezioni che Pagnoncelli offre fossero vere, tu dicevi la maggioranza va alla Lega e a Fratelli d'Italia e poi c'è anche Forza Italia, ma il Partito Democratico col Germanicum, con questa legge elettorale che non è ancora stata neanche varata, avrebbe 92 seggi e Italia Viva solo 3. Questo spiega anche, come dire, un po' la turbolenza che in questi giorni sulla prescrizione è Italia Viva a mandare avanti, perché se si andasse a votare a breve col Germanicum, insomma, adesso ci sono una cinquantina di parlamentari di Italia Viva, dopo sarebbero 3. Per cui deve trovare una soluzione: o si va a votare prima che la legge elettorale venga varata, ma mi sembra improbabile, oppure si cerca a tutti i costi di far cadere Conte e di sostituirlo con un altro governo, ma mi sembra difficile anche questo. Sì, piuttosto complicato. Nel frattempo, oh Maria, a me queste cose mi fanno impazzire, perché fa tanto prima Repubblica. Sentiamo Zingaretti, lo sentiamo Zingaretti, vai. Abbiamo chiesto al presidente Conte a questo punto di produrre una sintesi, che io credo che sia giusto, anche perché gli italiani ci guardano e noi vogliamo un governo che produca fatti. E credo che invece le continue polemiche creano solo danni e rafforzano le destre. Produrre una sintesi. Ma siamo in pieno ritorno, perché quando appunto piccoli partiti, ma piccolissimi partiti, creano fibrillazione al governo, è esattamente quello che succedeva ai tempi del pentapartito. Sappiamo, no, che ci sono partiti, per esempio Di Maio l'aveva detto apertamente che voleva fare l'ago della bilancia, ma è un po' anche l'aspirazione di Renzi. Quando ci sono partiti piccoli, anche l'ago della bilancia ci richiama un grande momento della Prima Repubblica. Chi può escludere che ne so, un domani Voce Libera di Mara Carfagna, Azione di Calenda, Italia Viva di Renzi si mettano insieme per fare un ago della bilancia più corposa? Siamo in pieno ritorno. I nostri più giovani ascoltatori neanche lo sapranno che cos'era l'ambiente politico della prima Repubblica. Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, grazie a voi. Che cos'è questa storia della quarantena per gli studenti, Zaia? Guardi, è la volontà sempre di stressare dei concetti che dovrebbero invece essere guardati e visti da un punto di vista scientifico. E è semplicemente la considerazione che facciamo e un quesito che poniamo al Ministero rispetto a un tema che ci viene posto dalle famiglie. Il bimbo che arriva non dalla Cina, ma dalle zone infette dalla Cina, cinese o italiano che sia o di qualsiasi nazionalità, oggi se è asintomatico può entrare tranquillamente in aula. L'aula, lo sappiamo tutti, è un ambiente confinato dove il bimbo ci resterà per 4-5 ore, quello che è. Il tema che pongono le famiglie, ed è ragionevole da un punto di vista scientifico, è di capire che certezza abbiamo che questo bimbo, che questo ragazzo, visto che stiamo parlando di scuola dell'obbligo, quindi in età di obbligo formativo, che certezza abbiamo che questo ragazzo, che questo studente possa non sviluppare la malattia? Nessuna. Punto. Questo è l'unica cosa, guardi, glielo dico veramente al di là di ogni, vedo che c'è gente che si avventura in considerazioni politiche, qui non c'è nessuna volontà di ghettizzare, di confinare, cioè, si pone una questione, bene, l'Istituto Superiore della Sanità, il governo dice che non c'è nessun problema, se non ci sarà nessun problema siamo tutti felici, se invece ci sarà qualche problema potremmo dire che noi avevamo posto la questione. Vedo che il dottor Ricciardi, peraltro, che non è che non è assolutamente mai stato tenero con noi, oggi dice beh, forse questa volta non l'hanno sparata grossa, hanno qualche ragione. Però io, presidente, un nostro ascoltatore, anzi una nostra ascoltatrice prima ci chiedeva, ma i governatori delle tre regioni sono stati sollecitati anche dagli esperti magari locali, si sono consultati con appunto persone che in questo momento stanno monitorando dal punto di vista scientifico la cosa, o hanno deciso solo su una base appunto di richiesta di genitori e su una scelta politica? No, guardi, qui scelte politiche non ce ne sono, qui ce ne sono le considerazioni, ci siamo confrontati con gli uffici, poi ognuno ha le proprie opinioni, c'è chi ha l'opinione di dire beh, questo virus è poco letale, è poco patologico, definiamolo così, chi invece dice che ci sono delle misure da adottare. Però le dico, guardi, glielo dico con modestia, non sono un virologo, ma i virus li ho studiati anch'io all'università. Allora, davanti a un virus non è che si va con la carta d'identità, il virus ovviamente sceglie l'ospite. L'ospite spesso è la persona debilitata, che può essere anziano o giovane, tanto è vero che le due categorie a rischio sono sempre queste. Ecco, qui qualcuno dice, ma questo virus non attacca i bambini. Non c'è scritto in nessun manuale che questo virus non attacca i bambini. Le evidenze scientifiche che abbiamo oggi sono quelle di dire che questo virus non ha per ora creato problemi nell'età dell'infanzia e quindi nei bimbi. Tutto qua, queste sono, guardi, noi abbiamo sempre, leggete la lettera, lo dico soprattutto a tutti quei premi Nobel che non sanno nulla di virus e di malattie, che stanno facendo dei commenti idioti, leggete la lettera dice, caro ministro, valuta sta storia, dici cosa vuoi fare, il ministro dice che non vuole assolutamente prendere in considerazione questo perché l'Istituto Superiore della Sanità lo tranquillizza, bene, noi prendiamo atto che Wuhan è una città di 15 milioni di abitanti che è letteralmente in quarantena, cioè i cittadini lo sanno che Wuhan, zona infetta, è in quarantena, non si esce da Wuhan e chi esce ha dei voli ovviamente programmati e quando arriva ad esempio in Italia ha tutta una serie di profilassi e procedure al quale deve sottostare. Punto. Questo virus è mediatico, siamo tutti felici. Non sarà mediatico e andremo purtroppo a raccogliere gli esiti di un virus vero e quindi, forte. Quindi Zaia, come da lettera che avete inviato insieme a Federica Fontana e Fugatti, la cosa riguarderebbe solamente gli studenti... L'obbligo scolastico. Sì, l'obbligo scolastico dei provenienti dalle zone affette, quindi immagino da Wuhan, no? Infette, sì, ma no? C'è scritto nella lettera. Ah. Il problema, sa qual è? Che tutti commentano, tutti scrivono, anche, ma nessuno. Mi scusi, Zaia, anche asintomatici? Certo, cioè il tema della verifica. Beh, scusi, se una persona è sintomatica è già, viene già introdotta e applicata la procedura prevista per il soggetto sintomatico, che è quella del soggetto sintomatico ha problemi alle vie aeree inferiori o superiori al problema della febbre, a quel punto ci sarà il prelievo, si fa la verifica se si tratta di influenza o se si tratta in particolar modo di questo coronavirus. Punto. Senta, Zaia, lei è anche il presidente di una regione che ha scambi importanti con la Cina, penso sia agli imprenditori veneti, certo, che agli imprenditori del turismo. Venezia si prepara al carnevale, abbiamo letto un meno 40% di prenotazioni negli hotel a Venezia. Ci può dare qualche cifra dei vostri, diciamo, delle vostre proiezioni su quelle che speriamo non ci saranno, ma potrebbero essere gli effetti del coronavirus sull'economia veneta? Ma guardi, le dirò in tutta sincerità che rispetto a Venezia noi avevamo già degli indicatori prima del coronavirus e l'indicatore più, diciamo, on the road ma concreto è quello delle prenotazioni dei treni, che non hanno assolutamente, non avevano prima del coronavirus il peso importante che di solito hanno per il carnevale. Diciamo che Venezia paga un conto salatissimo della partita dell'alluvione, questa è la vera partita. Coronavirus in generale è ovvio che ci mette in difficoltà non poco, noi abbiamo 600.000 imprese, tutte praticamente più o meno direttamente o indirettamente internazionalizzano, quindi i rapporti con la Cina sono costanti e quotidiani e ormai noi abbiamo molte imprese che non mandano i manager, non mandano i lavoratori in Cina in questo periodo per evitare ovviamente problemi. E questo ovviamente è un ulteriore fronte di preoccupazione, e però insomma qualcuno che fa avanti e indietro ci sarà sotto questo aspetto c'è qualche possibilità appunto di effettuare dei controlli, delle verifiche più approfondite? Ha l'impressione che il governo si stia muovendo bene da questo punto di vista oppure no? Ma guardi, io non mi sento in contrapposizione con il governo, c'è una circolare chiara. Ci sono ovviamente, c'è un commissario, ricordo che il governo ha dichiarato lo stato di emergenza, cioè non si capisce che se tu dichiari lo stato di emergenza vuol dire che c'è un'emergenza, se non c'è un'emergenza non dichiari lo stato di emergenza, fino a qua ci siamo arrivati tutti, no? Bene, ha dichiarato lo stato di emergenza, il Veneto si è dotato di una task force regionale, ha attivato la task force, per noi ce l'abbiamo sempre lì latente, e poi le task force per ogni USL, abbiamo le malattie infettive per ogni hub provinciale in maniera tale che se arriva il soggetto che è sintomatico, non l'asintomatico, è sintomatico, qui non bisogna creare allarmismo, il sintomatico viene direttamente indirizzato alle infettive e applicato il protocollo previsto dalla circolare, tutto qua. Noi abbiamo semplicemente detto nella circolare non si parla di questi bimbi che non è che se ne tornano a casa e girano per parco giochi o vanno in giro per i campi o che so, stanno in casa, vanno in un'aula dove troveranno degli altri bimbi che, se non hanno infezioni secondarie, cioè se non hanno avuto il virus da persone che gliel'hanno portato, passatemi il termine molto semplice, sono in teoria indenni da virus. Quindi se qualcuno glielo porta diventa infezione secondaria. In Germania c'è già l'infezione secondaria. Allora, grazie Luca Zaia. Sì. Buon lavoro. Posso aggiungere un aspetto? Ma prego. Tra l'altro questo mi è stato segnalato da un responsabile di un centro di formazione che ha un caso, sì, c'è anche oggi sui giornali, di un ragazzo di una scuola di formazione che rientra dalla Cina e sta cercando di parlare con i genitori perché questo ragazzo possa avere almeno quella decina di giorni di osservazione. Mi dice, sai qual è l'esito che ottengo? Che se il ragazzo non se ne sta a casa, se ne stanno a casa tutti gli altri. Quindi di fatto la quarantena qualcuno se la fa. L'opposta, la quarantena opposta. Va bene, grazie Luca Zaia. Buona giornata, Presidente. Buon lavoro, grazie. La quarantena per sottrazione. Ci fermiamo, una pausa, ci ritroviamo tra un attimo con Giorgia Meloni. Mattino. A mio avviso vale il principio di massima precauzione, di conseguenza per tutte le persone, non solo cinesi, che possono avere avuto contatti e quindi essere a rischio, deve essere applicata la quarantena. Sono i giornalisti che creano casi dove non ci sono casi, perché parlare di razzismo quando qualcuno magari ha delle difficoltà ad avvicinarsi ad una persona cinese, non perché è cinese, i cinesi sono simpatici a tutti, ma perché corrono un rischio, è assurdo. Magari quel signore è tornato due ore prima da Wuhan, io che ne so. E insomma, queste alcune posizioni dei nostri ascoltatori. Comunque, guardi, se uno gira tra Firenze, Prato, Milano, che ha la più grande comunità cinese, o anche Roma, è davvero impossibile. Non è che si incontrino solo negli aeroporti. Allora che facciamo? Siamo tutti tappati in casa, non usciamo per 16 giorni. C'è anche questo da tenere presente. Sicuramente. Allora, prima di andare da Giorgia Meloni, che tra l'altro oggi partirà per Washington, è proprio negli Stati Uniti che andiamo, Maria, perché sì, sta succedendo un bel casino, mettiamola proprio così, in Iowa, dove si svolge questa curiosa cerimonia che è l'avvio delle primarie per la scelta del candidato alla presidenza, che sono i caucus, che sono in realtà delle piccole assemblee che si svolgono in singoli luoghi, nelle palestre, nelle sale, eccetera, eccetera. Dall'Iowa arriva il candidato democratico che, per tradizione, almeno finora è stato così molto spesso, sarà quello che poi avrà la nomination. Sì, i primi tre dell'Iowa in genere, ce n'è uno che arriva alla nomination del partito. E ieri notte Donald Trump si fregava le mani. Perché? Perché nell'Iowa non sono riusciti a contare i voti e quindi nessuno ha potuto dichiararsi vincitore. Ora, non è la prima volta che negli Stati Uniti ci sono risultati contrastati o addirittura non si arriva al risultato. Ricorderete la notte in cui cambiarono le elezioni, sembrava che avesse vinto Al Gore e invece con i voti della Florida, su cui c'è sempre stato un'ombra, poi alla fine vince George W. Bush. Qui è molto più piccola la dimensione e tuttavia nessuno veniva dato per vincitore Sanders, e quindi adesso i tifosi, i sostenitori di Sanders dicono, beh, ma che strano, lo davano per vincitore e invece adesso nessuno sa chi ha vinto. Ti leggo il titolo della CNN, Iowa caucuses, something has gone wrong. È andato male. E anche il Guardian fa un titolo che dice, insomma, mess, un casino. Però è interessante per due aspetti. Primo, perché il fatto che nello stato che viene, sul quale si ponevano tutte queste attese, aspettative, non dà un risultato e dà l'idea appunto di un partito molto dibattuto, molto contrastato. Secondo, perché invece, sia pure in una dimensione molto più piccola, Donald Trump ha vinto in elezioni che si svolgevano praticamente contemporaneamente. E dunque insomma, c'è un segnale di fragilità del Partito Democratico. Tra i repubblicani sta già circolando la battuta: non sanno gestire i caucus, figuriamoci se sanno gestire un paese. Quindi, certo, insomma, è già partita. Si fregheranno le mani, sì. Insomma, allora, sempre dall'estero, c'è un altro elemento estero, ormai estero direi. Più europeo. Lo sentiamo Boris Johnson, va, sentiamo. We have the opportunity. We have the newly recaptured powers. We know where we want to go. And that is out into the world. And today. Insomma, sappiamo dove vogliamo andare ed è là fuori nel mondo. E i giornalisti... Retorica, sì. Però retorica forte, efficace, oggettivamente. Ma lui è un bravissimo oratore, però i giornalisti hanno preso sul serio e se ne sono andati fuori davvero, perché come ci racconta il Guardian, i giornalisti politici hanno boicottato il briefing di Boris Johnson a Downing Street, alzandosi e andandosene quando... diciamo il portavoce di Johnson ha deciso di escludere dal briefing alcuni reporter. È un segno di come dire, giornalismo alla schiena dritta, direbbero con un'espressione che io detesto qui in Italia, però mi piacerebbe sapere se un giorno un paio di giornalisti fossero esclusi da una conferenza stampa di un primo ministro italiano, se gli altri seguirebbero l'esempio dei colleghi inglesi. Forse in passato qualcosa di simile è successo e nessuno si è alzato. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349-238-6666 per gli sms, per i messaggi su WhatsApp, anche audio naturalmente. E forse abbiamo Giorgia Meloni? Dovremmo avercela, no? Dobbiamo aspettare ancora un minuto, ci dice Giorgio De Luca, che cosa abbiamo tempo di ascoltare? Beh, ce l'abbiamo. Giorgia Meloni, buongiorno, leader di Fratelli d'Italia. Buongiorno a voi. Eccola qua. Prego Maria, vai. Con la valigia in mano, perché sta per volare a Washington per una serie di incontri con esponenti repubblicani e anche democratici, e poi parteciperà a questa National Prayer Breakfast, che è un evento che si organizza ogni anno, nel quale ogni anno alcuni politici italiani vengono invitati insieme a politici di tutto il mondo. La domanda che le faccio è sempre un po' riferita al suo alleato Salvini, perché tempo fa il vice segretario della Lega Giorgetti ammise, disse: soltanto al governo Matteo Salvini ha capito l'importanza delle relazioni internazionali. Lei, che sembra molto insomma attenta a queste relazioni internazionali, sta studiando da premier? Una domandina. Intanto di nuovo buongiorno. No, non sto studiando da premier, ma sono assolutamente certa che sia importante per il ruolo, non solo nostro, ma per il ruolo della nazione che rappresentiamo, intanto conoscere altre realtà, conoscere i problemi che quelle realtà affrontano e la condivisione sulle soluzioni di quei problemi. Fratelli d'Italia ha lavorato da tempo alla costruzione di una fitta rete di relazioni internazionali, con, devo dire, buoni risultati, perché allo stato attuale noi siamo, lo ricordo, co-presidenti del gruppo dei conservatori europei, è una delle più importanti famiglie del Parlamento europeo, insieme ai polacchi di Kaczynski, e insomma, quindi abbiamo lavorato per costruire una rete di conservatori qui in Europa, e poi per confrontarla anche con, insomma, i repubblicani americani, insomma, con tutto il tratto di movimenti che condividono con noi sfide comuni, anche se poi vanno sempre calati nelle realtà, nella differenza delle realtà, che credo che questo sia estremamente importante. Mi pare che insomma stia accadendo con ottimi risultati. Ieri ho aperto la conferenza dei conservatori qui a Roma, alla quale oggi parteciperà anche per esempio Viktor Orban, ma c'era Santiago Abascal, il leader di Vox, che è un partito diciamo molto simile a Fratelli d'Italia in Spagna, c'era Thierry Baudet di Forum for Democracy, un altro movimento conservatore europeo. Insomma, cioè, ci sono delle amicizie che si sono create che penso possano essere utili non solo ai partiti che rappresentiamo, ma alle nazioni che rappresentiamo. Meloni, vi state dividendo con Salvini le sfere di influenza, per così dire, lui con Mosca e voi con Washington. Ma guardi, allora io non sono per le sfere di influenza, francamente per me questo è un modo un po' provinciale, questo di dire appunto uno è filo qui, uno è filo lì degli italiani guardare la politica estera. Io non sono filo niente, perché i fili ce li hanno i burattini, però credo che sia molto importante avere buone relazioni con più persone possibili. Chiaramente l'Italia è una nazione che sta all'interno del Patto Atlantico, è una nazione ovviamente schierata sul fronte occidentale, ma questo non toglie che non si possono avere buoni rapporti anche con la Russia. Oggi la Russia dal mio punto di vista è un importante partner per tutto quello che per esempio riguarda la lotta al nostro principale nemico, che è il fondamentalismo islamico. Quindi insomma bisogna saper guardare alla politica estera difendendo il proprio interesse nazionale. Quello è l'unico diciamo così, l'unico fatto dirimente, mentre a me pare che molto spesso la politica italiana tutta abbia inteso un po' la politica estera come chi è più bravo a fare la cheerleader di un leader straniero. Non è il mio metodo, io faccio quello che faccio in nome e per conto del popolo italiano e costruisco per questo buone relazioni, ma tutti sanno quando parlano con me che non farò nulla che non sia il meglio per il popolo italiano per compiacere qualcuno. Senta, in Europa se anche l'Italia avesse sempre ragionato così avremmo un'altra capacità di influenza. In Europa lei ricordava appunto che fate parte del gruppo dei conservatori, al quale gruppo potrebbe aggiungersi Viktor Orban dando ulteriore forza. Le chiedo, siccome il Partito Popolare per il momento ha ancora una volta congelato l'espulsione di Orban, ieri lei che l'ha incontrato ha capito fino a quando Orban rimarrà nel Partito Popolare? E se nel caso fosse alla fine espulso, perché i paesi del nord Europa che aderiscono al Partito Popolare non lo vogliono, Orban verrà con voi, con i conservatori, o andrà con il gruppo di Salvini? Allora guardi, io credo che il fatto di aver diciamo sospeso la decisione su Orban sia un modo anche per il Partito Popolare di chiarirsi al suo interno, perché appunto, come lei ricordava correttamente, i partiti del nord all'interno del PPE, di un PPE che è diciamo diviso tra chi vuole un'alleanza verso sinistra e chi vuole un'alleanza verso destra, PPE è spaccato e deve decidere che cosa fare della sua vita. Chiaramente si rende perfettamente conto del fatto che ogni decisione comporta come sempre delle conseguenze. Io credo che se la decisione appunto, se il Parlamento europeo con il sostegno del Partito Popolare dovessero diciamo così andare contro le scelte di Viktor Orban, penso che lui prenda in considerazione l'ipotesi di fare scelte alternative, e in quel caso è evidente che la sua diciamo famiglia naturale sarebbe quella dei conservatori, intanto perché appunto i conservatori attualmente sono guidati da noi, quindi hanno un po' di rapporti con Fidesz. Però è caduta la linea, e allora, dato che abbiamo una pausa pubblicitaria, prendiamocela. Mattino. Oh, tutto bellissimo, questa storia delle relazioni internazionali. Meloni, abbiamo detto, sono molto importanti, ma sono importanti anche le relazioni all'interno di una coalizione. Non ho capito dove siete arrivati sulla vicenda di Orban, perché ho parlato da sola. Ha parlato di Fidesz, ma più o meno. Sì, ce l'ha detto. Più o meno c'eravamo. E quindi la domanda ha a che fare con le candidature per le regionali, che mi sembra che siano uno snodo importante nei rapporti tra voi e Matteo Salvini. Chi candidare in Puglia, chi candidare nelle altre regioni, in Campania, soprattutto le regioni del sud naturalmente. Vi siete fatti un'idea? Avete trovato un accordo? Voi ritenete che i candidati debbano essere vostri o di Forza Italia? No, ma non è questione nostri o di Forza Italia. Noi avevamo, diciamo così, ragionato insieme di come si potesse affrontare questa tornata di elezioni regionali complessiva che riguarda le sei regioni dove si voterà nella prossima primavera, ma riguardava anche quelle nelle quali si è appena votato. Avevamo fatto un quadro complessivo che teneva conto ovviamente di quali potessero essere i candidati migliori, perché poi di questo bisogna parlare soprattutto, e anche chiaramente di una coalizione nella quale tutti quanti hanno diritto a essere rappresentati, anche secondo, voglio dire, i risultati che si sono guadagnati. Abbiamo fatto dei patti e quindi penso che per quello che mi riguarda i patti non c'è bisogno di rivederli. Io non l'ho mai rimesso in discussione, perché da persona, come si sa, di destra sono abbastanza rigida sul tema della parola data, per me quando si dà la parola su una cosa non c'è bisogno di fare niente di più. Ma Salvini gliel'ha chiesto, Salvini ve l'ha chiesto di rivedere queste candidature oppure no? Allora, noi ci dobbiamo vedere, come voi sapete, insomma, penso che affronteremo la questione. Io ho letto da alcune, ma soprattutto ricostruzioni stampa o da alcune dichiarazioni della classe dirigente però della Lega, il tema appunto di ridiscutere alcuni patti, ma non ho motivo di dubitare della parola di Matteo. Le faccio un esempio, Giorgia Meloni. Ha mai dubitato della mia. Senta, a parte le parole date che abbiamo visto in tempi. No, Giorgia. Scusa, fermo restando che è legittimo. No, aggiungo una cosa: dico fermo restando che è legittimo che chiaramente si abbiano poi si cambi idea o si abbiano delle per aspettative, carità. Sono toglie che le cose si modificano. Se però la parola data in politica abbiamo visto anche di recente quest'estate che poi le cose cambiano molto rapidamente. Le faccio un esempio semplice. Non è il caso mio, però. No, però in generale. Senta, prendiamo la Toscana. Si dice che se Matteo Salvini ritirerà la candidatura della leghista Susanna Ceccardi, questa sarà, come dire, la conferma di un accordo tra Salvini e Renzi. La Toscana va, diciamo, al candidato Gianni e poi invece sulla Puglia ampia prateria per far cadere la candidatura, cioè per far sconfiggere Emiliano. Le chiedo, se le cose andassero così, cioè se la candidatura della leghista Ceccardi non fosse in campo e quindi toccasse a uno di Fratelli d'Italia, lei ne dedurrebbe che cosa? Che avete vinto voi una candidatura in una Toscana che poi comunque andrà alla sinistra o che questo patto Salvini-Renzi esiste davvero? Allora, guardi, le devo dire sinceramente che la ricostruzione mi pare francamente un po'... cioè non corrisponde a quello che so io, ecco, di questa materia. Il nome della Ceccardi è un nome che non è mai stato fatto finora in nessun tavolo e quindi non è mai stato una candidatura in campo, fermo restando che chiaramente in questo quadro che noi avevamo fatto la Lega avrebbe avuto la responsabilità di proporre agli alleati per quale potesse essere il candidato migliore per la regione toscana, però no, è una regione nella quale, a differenza del fatto che per esempio noi abbiamo fatto i nostri nomi nelle Marche, nella Puglia, di Acquaroli e Fitto, il nome per la Toscana non era mai stato fatto, quindi non avrei motivo di ritenere nulla se decidesse di non candidare la Ceccardi. Valuterò sulla base delle proposte che si fanno quanto si voglia vincere, ma do per scontato che vogliamo vincere tutti. Io escludo che Salvini abbia fatto patti con Renzi per regalargli la regione toscana, perché è una regione che conosce benissimo, nella quale la Lega c'è, fa il suo lavoro e quindi escludo che un segretario di partito sia disposto a mortificare così la sua classe dirigente. Credo che siano ricostruzioni giornalistiche e tutti quanti lavoreremo per vincere in Toscana con un candidato il più possibile ampio e inclusivo che possa rappresentare tutte le anime, insomma, come facciamo nelle altre regioni. Sul cui nome non avete ancora un'idea, in sostanza. No, delle idee ci sono e sono state, insomma, sono state fatte, però insomma non è una regione nella quale abbiamo definito le cose, è una delle regioni nelle quali bisogna sicuramente, è una delle regioni per le quali bisogna rivedersi, ecco, stiamo parlando di vederci. Però il nome della Ceccardi, guardi, le confermo che è corso, tra l'altro è stata anche citata in qualche articolo. Assolutamente, ma io le devo solamente dire, a onor del vero, che non è mai stato un nome definito, no? Nel senso, come può essere stato il nome di Fitto in Puglia, per intenderci. I nomi ne sono stati fatti tanti, ma la Toscana è una regione rimasta aperta. Per poi, chiudere, Meloni, Ceccardi è nel novero delle possibilità oppure no? Solo questo. Ma penso di sì, ovviamente, penso di sì, però non è stato definito nulla. Sente una cosa, mi permette di tornare un attimo sul tema col quale abbiamo aperto questa trasmissione, l'abbiamo fatto con Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ed è la questione del coronavirus, sul quale mi sembra lei si sia un po' smarcata dalle dichiarazioni dell'alleato, dello stesso Salvini sul tema, la chiusura, frontiere, questo attacco a testa bassa al governo, ho sbagliato, è stata una mia percezione, com'è? Ah, guardi, purtroppo siamo in un momento nel nel quale qualunque cosa io dica e sento qualcuno che dice che l'ho detta per smarcarmi da Salvini. E segnalo che non ho alcun bisogno di smarcarmi da Salvini, io sono alleata di Matteo Salvini, ma io e Salvini siamo due partiti diversi, diciamo cose non identiche da qualche decennio, per cui non ci vedo questa ricostruzione che mi pare si voglia un po' forzare, se mi posso permettere, in questo periodo che la Meloni e Salvini litigano, si detestano. Non è così, io e Salvini siamo alleati, lavoriamo insieme, vinceremo insieme, abbiamo chiaramente spesso posizioni o sfumature o letture diverse dei fenomeni, nello specifico il coronavirus. Io ho detto molto poco, perché ho posto il problema che secondo me va posto prima di dire qualunque altra cosa, e cioè: ci fate capire di che stiamo parlando? Perché noi stiamo commentando tutti un virus sul quale poi è stato isolato dallo Spallanzani eccetera, quindi uno magari ne sa di più. Ma quando io ho fatto la mia dichiarazione ho detto: si può chiedere a questi signori del governo cinese e all'Organizzazione Mondiale della Sanità se ci danno informazioni certe, ci dicono che parliamo di un'influenza, di una cosa che mi pare chiaro, però per chiudere, Meloni, per chiudere su una nota anche, se ce lo possiamo permettere, anche come dire più lieve, che cosa ha pensato quando ha visto che Ignazio La Russa suggeriva di non stringere le mani con un tweet, no? Non stringete le mani, fate piuttosto il saluto romano, poi l'ha cancellato, però insomma. Vabbè, devo dire che era innocente, poverino, perché se si vede da Facebook che non l'aveva pubblicato lui, Facebook lo dice, era stato pubblicato da un suo collaboratore, a quale lui ha chiesto immediatamente di rimuoverlo, per cui mi pare insomma che si sia fatta una tempesta di un bicchier d'acqua. Sì, nemmeno troppo una tempesta. Si è parlato molto di una cosa che secondo me insomma era proprio estemporanea, ecco. Era stato rimosso dopo 3 secondi, appena lui lo aveva visto, quindi non ci farei un grande dibattito. Un grande cinema. Grazie Giorgia Meloni. Grazie a voi, buongiorno. Buon viaggio, buon viaggio per Washington, leader di Fratelli d'Italia. Cara Maria, noi ci rivediamo domani. Ci rivediamo, tra l'altro, sì, perché qui resta a Milano, nella nostra bella redazione. Carmelo Lauricella regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera in assistenza in redazione, Margherita Ina e Francesco Ciaraffo i nostri autori, 24mattino@radio24.it se ci volete scrivere, la pagina Facebook di 24 Mattino dalla quale andiamo in diretta video, ma insomma nella quale trovate anche altri contenuti, tracce dei nostri podcast e via dicendo. L'account Twitter, Instagram, lo sapete, c'è tutto. Noi ci risentiamo domani mattina alle 6:30. Ciao. Ciao.